Allora, oggi ancora una volta Radio Onda Rossa vuole ricordare un compagno che ci ha lasciato lunedì scorso, Mario Monicelli, perché per noi, sì, grandissimo regista, poi cercheremo anche di parlare di questo, già l'abbiamo fatto nel corso della settimana, ma per noi il vuoto che ha lasciato Mario Monicelli, il vuoto che lascia un compagno, così ci piace ricordarlo. Abbiamo aperto questo breve spazio che lo ricorda con una canzone che faceva parte della colonna sonora di un suo film, credo degli anni 70, Romanzo Popolare con Ugo Tognazzi e Ornella Muti e un giovanissimo Michele Placido. E questa canzone, certo, fra l'altro oggi in questa situazione che ci troviamo a vivere, pensiamo alla Fiat, ha anche un'attualità e un significato ancora più profondo. E ce ne sono certamente molte altre di canzoni e di colonne sonore anche molto più divertenti, diciamo, che sicuramente rispecchiano anche quello che era il personaggio, l'uomo Mario Monicelli. Noi comunque intanto, per cominciare, vorremmo mandare l'inizio di un'intervista che facemmo 4 anni fa a Mario Monicelli. In previsione delle celebrazioni, possiamo dire, del trentennale della radio, come sapete, è nata nel 77. Quindi noi nel marzo del 2006 contattammo Mario Monicelli, che preferì venire qui in radio a parlare con noi, probabilmente per la curiosità e anche per la grande disponibilità che ha avuto sempre in modo assolutamente semplice nei confronti di chiunque, ma in questo caso soprattutto di una radio che lui ascoltava, noi questo lo sapevamo, per cui ci diede questa disponibilità e mandiamo qualche minuto, sono 4-5 minuti di qualità non buona, però speriamo che comunque si capisca abbastanza quello che diceva e poi torneremo a parlare noi. Che dicesse qualche cosa che mi interessava, ho sbattuto contro Radio Onda Rossa, nessuno me l'aveva detto e ci sono capitato, però soprattutto per sentire musica, mi sono interessato a un certo tipo di musica che facevate e che continuavo a fare. Allora la cosa mi ha interessato e ho visto che per fortuna alle musiche corrispondeva pure la testa che avevate e quello che dicevate, cioè così come vedevate un po' il mondo eccetera, e allora ho cominciato a seguirla quando potevo, perché purtroppo quando esco quando te lo consente il tuo lavoro, sì, perché è un peccato, perché se potessi sentirla pure fuori non potete potenziarla poi. però la puoi sentire su internet, non so se tu no, non ci vedo neanche su internet, ormai sono 91 anni Però voglio dire, però Radio Radicale si sentirà per tutto, per quello che potenza c'ha, da dove hanno preso? Perché Radio Radicale c'ha più trasmettitori, un network, come si dice in termini più meno tecnici. Certamente, insomma, noi come sai non abbiamo fonti di finanziamento se non le nostre, le sottoscrizioni degli ascoltatori, quindi i nostri mezzi sono quelli che sono. Infatti un po' mi fa da fastidio, perché sento sempre Radio Radicale e sento mai Radio Onda Rossa fuori Roma, parlo di fuori. Sì, fuori Roma, certo, sì. Quindi insomma sono parecchi anni che tu la senti. Sì, sono parecchi anni che la seguo, anche ripeto, perché oltretutto mi interessa quello come la pensa Radio Onda Rossa. Sento molto volentieri, anche quello però mi scappa. chi è l'opinionista che c'è sta in questi ultimi un paio d'anni? La mattina? Sì, la mattina. Salvatore sarà. Ma non è tre mattine? No, però in genere c'è lui che è più... Ma non si sa con te, delle volte la chiappa, delle volte no. Lo vorrei acchiappare perché mi interessa, però non c'è. Ma è un uomo comunque? No, così. No, non lo so, perché qui si alternano, sai, ci conosciamo, però insomma ti interessa, ecco, ma... Sì, mi interessa, sì. Perché quello che diciamo... Ma perché intanto non parlate sempre della situazione che stanno sempre a vivere Berlusconi, delle elezioni, insomma, come si chiama lì? Bettinotti e Prodi compagnia bella, parlare anche di altre situazioni, anche se vogliamo in Italia, ma anche fuori, sapere quello che succede anche nel mondo, al di là fuori del mondo, e quindi anche con un occhio abbastanza anche duro, non tanto ecco, tu hai detto duro, no, la durezza è sempre stata una cosa che ci rimproveravano fin dall'inizio, insomma, che non solo perché usavamo un linguaggio duro, ma perché le cose che dicevamo erano pesanti, quindi non a caso poi abbiamo avuto processi anche per questo. Ecco, secondo te che cosa è duro e che cosa non è duro nel linguaggio, nel modo di proporsi? Ma diciamo, il linguaggio, adesso non so, il linguaggio va bene, mi interessa il linguaggio se sia duro o no, se le frasi, se i termini sono pesanti o meno, ma non mi pare che siano particolarmente... Ma non sono mai volgari, mi pare, volgarità non ce n'è mai. Quindi, no, è duro, voglio dire, nei giudizi che uno che si danno di certe situazioni. Tanto è netto anche, oltretutto non è sfumato, per dire, insomma. Non è politicamente corretto, ecco, come si non è politicamente corretto, non è sfumato, non è da un cerchio bottista, come si dice. Sì. E cioè, allora quello mi piace, mi interessa e seguo e quindi. Sono anche d'accordo, e quando non sono d'accordo non fa niente, però mi piace quella cosa quando è come proposta e come detta, ecco. Cioè c'è un punto di vista che almeno è chiaro. Thank you. qui viene fuori subito il discorso della violenza. La radio sulla violenza ci è dedicata parecchio. Certo. Mi ricordo il caso Moro, non solo, se ti capitò in quegli anni di ascoltarla. Ci trovammo in seria difficoltà perché volevamo affrontare questo problema senza demonizzare. Sì, certo. In questa società è difficile parlare della violenza senza essere catturati. Adesso soprattutto poi che guai la violenza, poi tutti sono diventati buoni, sono tranquilli, guai che alza un dito, è tutto così. Io poi sono un'altra idea. Sì, certo, la violenza è condannabilissima. Ma non è detto che bisogna stare sempre davvero prendere l'altra guancia. Bisogna anche difendere, guai se non si contrasta la violenza degli altri, se no a quest'ora saremmo tutti quanti dei vegoni, comanderebbero solo la razza padrona, la quale comanda. E come sentite stiamo mandando degli stralci da questa intervista che è durata circa un'ora, e quello che comunque colpisce sicuramente è l'attualità estrema di quello che dice Monicelli, che, rispetto per esempio a queste ultime parole che ha detto sulla violenza, e stiamo intervallando ancora con brani delle colonne sonore dei suoi film. Ci vengo e invece tu pisci. Ma vaffanzum, ma vaffanzum. Chi chiava tromba, si tromba. Chi tromba chiava, si chiama. Ci scusi, thank you. Ma il problema è sempre questo. E oggi, insomma, questo problema noi, io ho qualche anno in più di chi è giovane, però i giovani per esempio non sentono più parlare di socialismo tra i grandi, no? Dalle persone più grandi, dagli uomini politici, ma anche non dagli uomini. Determinate parole sono scomparse proprio dal linguaggio comune. Una volta diceva da veni baffone, adesso a parte. Sì, è come no, è bello. Un riferimento, un riferimento a un mondo che mondo, c'era, una speranza, a una speranza, sì, certo. Oggi vabbè, uno può anche dire, meno male che non c'è più baffone, no, per certi versi. Però vedremo, infatti è tutto. Però il riferimento a quel mondo proprio è stato cancellato. Perché socialismo è diventata una cosa, credo per colpa proprio dei Craxi, è diventata una merce di scambio, una merce per camuffare delle altre intenzioni, che non sono quelle del manifesto, perché c'è poco da fare, il libro che uno tiene sul cassetto che dovrebbe... Che spiega, che dice tutto, quello che devi fare è quello. Dice, c'è uno spettro, se gira in Europa, ed è quello lì, cos'è, il comunismo. Ecco, e quindi fanno giri solo Berlusconi, lo dice, perché c'ha paura, lui c'ha ragione perché c'è paura. Meno male che lo ricorda lui. Sì, se fosse lui, non lo direbbe nessuno. Dice. Però questa idea, l'idea c'è, c'è niente da fare, un'idea talmente forte, ma poi è forte e naturale, voglio dire, non è manco, nasce da per sé, nasce da questi che dal Senegal si mettono su una barchetta, non sanno dove vanno, non conoscono la geografia, non sanno che il mare che devono attraversare, battono sulla barchetta per venire dove vedono attraverso la televisione, dove c'è Bengodi, tutti belli, ballano, cantano, si divertono, si spogliano nudi, fanno l'amore, eccetera, lì è quella la cosa. E vogliono venire, vengono. E quindi lì. Poi c'è un'altra faccia. Quella è la cosa per cui noi c'è un bunker che l'Europa si difende. Un fortino, un fortino, è un bunker che si difende. Questi muoiono, vabbè, ma insomma noi vogliamo stare. Poi c'è questa curiosa faccenda della Cina. La Cina è comunista. Thank you. manifesto che se ne parla più, una cosa vecchia la dovevo buttare. Invece secondo me tutto nasce da lì e tutto è ancora lì, ancora non è stato realizzato neanche per la decima parte. E quindi voglio dire, quella è la strada che uno si fa. Io poi sono uno che, voglio dire, sono praticante, nel senso che faccio un mestiere che posso anche raccontare delle cose, e le racconto alla maniera mia, come posso, perché io ho la mia visione, e poi mi devo divertire, devo far divertire gli altri, faccio un certo tipo di lavoro col cinema, che però è sempre perlomeno con un occhio su questo tipo di rapporto fra gli uomini, fra le persone, fra le genti, certo, quasi sempre sono i poveri che hanno questo rapporto felice, questo rapporto che ti fa sentire simile all'altro. Simile all'altro, soprattutto ti fa sentire una persona, un uomo, non una bestia. È così, perché se ti rapporti con quelli che hanno i miliardi, le cose cambiano proprio, c'è niente da fare, la razza padrona è così, quando uno diventa padrone diventa un animale, non è più un uomo, quindi quello è il guaio. E ti volevo chiedere, allora questo spettro sa gira ancora, possiamo dire, non solo per l'Europa, ma sì, in tutto il mondo? Io spero proprio di sì che si aggiri, tant'è vero che non lo sanno nemmeno quelli. Quelli che della banlieue francese eccetera, quelli non è che avessero letto il manifesto, però quelli girano per l'Europa, mettono paura, perché non possono stare come sono costretti a stare, credendo che aver risolto la vita venendo qui in Europa. I loro nonni sono venuti qui in Europa credendo di risolvere tutto, non hanno risolto niente, perché la razza padrona è rimasta razza padrona, c'è niente da fare, e così rimane. Se ci si va con la violenza, allora io devo dire che le rivoluzioni, i cambiamenti veri, sostanziali, importanti, si fanno con le guerre civili però, la guerra civile, l'unica guerra civile è la guerra civile. Senti, allora, questa radio secondo te un po' quello spettro di cui parlavamo prima ha contribuito a mantenerlo un pochino in giro? Io penso di sì, proprio perché appunto dice le cose con una certa durezza, con una schiettezza, senza timore di offendere anche certe classi che potrebbero sostenerla più di altre, e quindi cerca di dire la verità, secondo me, cerca di non nasconderla, di non dialogare troppo, di non mettersi troppo d'accordo. Anche questa faccenda di dire dialoghiamo, oh, sono migliaia di anni che stiamo dialogando. Che succede? Succede niente. You had your fun, you don't get well no more. I want you, your fingernails go dragging down the wall. Be careful, darling, you might fall. I want you. I woke up and one of us was crying. I want you. You said, young man, I do believe you're dying. I want you. If you need a second opinion, as you seem to do these days, I want you. You can look in my eyes and you can count the ways. Did you mean to tell me but seem to forget? I want you, since when were you so generous and inarticulate? I want you. It's the stupid details that my heart is breaking for. It's the way your shoulders shake and what they're shaking for. I want you. It's knowing that it knows you now after only guessing. It's the thought of him undressing you. Or you undressing. I want you. He tossed some tatty compliment your way. I want you. And you were fool enough to love it when he said hurt you, it's just like the dark. It scares you witless, but in time you see things clear and stark. I want you, go on and hurt me, then we'll let it drop. I want you, I'm afraid I won't know where to stop. I want you, I'm not ashamed to say I cried for you. I want you, I want to know the things you did that we do too. I want you, I want to hear he pleases you more than I do. I want you. E dunque sono le 13 e 3 minuti, 4 minuti. Stiamo facendo in maniera un po' come dire, in lavori in corso, stiamo cercando di mettere insieme alcune interviste fatte a Monicelli, il grande regista, però anche il compagno che ci ha lasciato lunedì, e che appunto vogliamo far riascoltare alcuni suoi pensieri in alcune interviste fatte soprattutto nel 2006, alcuni anni fa. E quindi alcuni pezzi sono veramente interessanti, è importante non perdere le lucide affermazioni di questo grande regista, ma anche grande amico di Onda Rossa e comunque un grande compagno. Adesso ancora un po' di musica, stiamo cercando altre cose, ancora qualcosa, poi cerchiamo anche di telefonare a qualche operatore di cinema che l'ha conosciuto. I want you, I want you. Every night when I go off to bed and when I wake up, I want you. Combattere con la censura, allora sì, allora seguire, tagliare qualche frase, qualche cascella, lì dovevi combattere, no, sì, non lo do, eccetera, alla fine qualche volta riuscivi a ottenere qualche cosa, qualche volta no, e allora è successo due o tre volte. E anche qual poco. È stato il film più massacrato? Il più massacrato è uno che si chiamava Totò e Carolina, era, sì, aveva un sacco di cose, compreso il fatto che c'era anche una tutta una sequenza di un gruppo che andava a fare un comizio, un gruppo di comunisti, non dicevo niente, era un gruppo che andava a fare un comizio e seguiva un certo itinerario che era un po' quello che seguiva il poliziotto che portava la prostituta che aveva trovato e la riportava al paese, perché allora c'era questa cosa. E questo gruppo di comunisti andava, cantava Bandiera Rossa, eccetera, tanto non doveva cantare Bandiera Rossa. Ti hanno fatto togliere Bandiera Rossa. Bandiera Rossa. E poi siccome in alto questo poliziotto gli capitava dei guai con questa ragazza per la strada, poi nessuno gli dava aiuto, quelli che li davano, ero solo che li davano, erano sempre i comunisti che arrivavano e l'aiutavano un po' loro, e sta cosa rompeva molto le scatole, ecco, e quindi hanno tolto parecchie battute, parecchie cose, parecchie sequenze, appunto, dovuto condannare molto. Un altro era guardia e ladro, lì era una cosa che aver messo insieme che la guardia e il ladro sullo stesso piano umano, due affamati, era la rivoluzione, sembrava che fosse scoppiata la cosa, vedete che succedeva. She may not be what she may seem inside her shell. Pensiamo che abbia fatto piacere ai compagni, a chi ci ascolta, questa brevissima carrellata, questa estrapolazione un po' da un'intervista che, ripeto, durò un'ora, e speriamo di avere un po' colto un po' quello che era proprio il carattere, il compagno, l'uomo Monicelli. Purtroppo non siamo riusciti a contattare una regista che ha lavorato con lui, che probabilmente ci avrebbe dato un ricordo, e ci interessava anche avere diciamo un giudizio, una testimonianza su quello che ha significato Mario Monicelli nel cinema italiano e non solo, ma di questo, ripeto, sicuramente se ne parlerà ancora nelle trasmissioni di questa radio. Eventualmente, magari, se troviamo uno spazio, un'occasione, l'intervista la manderemo integralmente più di una volta, ve lo diremo in precedenza, perché sicuramente è ricca di tutte queste cose che avete sentito anche oggi, e soprattutto questo parere così spassionato che, insomma, sulla nostra radio, questo ascoltatore così particolare che sicuramente ci riempie d'orgoglio. Io devo dire che una cosa che si è detta molto in questi tempi è stata, vabbè, a parte le cose orribili su cui non vogliamo tornare, le propagande che sono state fatte sul gesto con cui Monicelli ha voluto concludere il suo film personale. E sì, si è detto spesso, no, che aveva un carattere brusco, così, un toscanaccio e cose simili. Sì, sicuramente, almeno per i ricordi personali che abbiamo, per esempio quando lo contattammo per questa radio, diciamo, aveva sicuramente questa maniera brusca, ma poi la disponibilità estrema che lui ha dato, insomma, l'avete sentita. Allora, adesso un altro pochino di musica. Niente. Siamo al telefono con Vilma Labbate. Ci senti, Vilma? Sì. Oh, e qui c'è un po' di concitazione. Allora, abbiamo mandato prima in onda degli spezzoni di un'intervista che facemmo a Mario Monicelli qui alla radio nel 2006, e dove come ho detto poco fa, veramente si evidenziava il personaggio. Io però volevo intanto ricordare a chi ci ascolta che Vilma Labate è una regista importante. Ricordate tutti il suo film forse più famoso, La mia generazione, ma io ricordo ancora di più Domenica, un altro film molto bello che a me è piaciuto molto e durante la proiezione del quale io vidi per la prima volta Mario Monicelli, che si alzò all'inizio del film incazzato nero perché l'audio non si sentiva bene, che un po' è proprio come era lui. Allora Vilma, tu hai lavorato con Monicelli, no? Sì. Ecco, ci vuoi dire qualche cosa di lui? Ma guarda, è stata un'esperienza molto importante. Io lo conoscevo, ma superficialmente. E invece lavorare insieme a lui, abbiamo girato insieme un documentario, ma c'erano anche altri registi. Però Mario e io scegliemmo alcuni luoghi insieme e quindi noi dovevamo raccontare un po' la situazione della Palestina. Le lettere della Palestina. Eravamo una decina e ci siamo spostati, ci siamo divisi, diciamo, lungo il territorio. Mario e io siamo rimasti quasi tutto il tempo delle riprese insieme e poi abbiamo curato insieme il montaggio del film. Ma guarda, è stata un'esperienza molto forte perché lui era uno estremamente concreto, affatto cattivo, come si dice. Guarda, questa proprio è una notizia falsa. È un uomo molto asciutto, molto appunto concreto, con un grande rispetto per il suo, gli altri. Forse c'è un problema di gallerie perché Vilma Labate è in movimento, speriamo che riprenda. Se non lo spegne. Che rabbia, mannaggia, perché era pure bella quella che diceva. Qui se lo alzo si sente se sta ancora. Niente, è andata. Riproviamo. E purtroppo ci sono problemi di gallerie, quindi adesso comunque riproviamo a contattare Vilma, perché comunque quello che ci diceva mi sembrava molto importante. There's a girl here and she's almost you, almost, almost. Things that you promised with your eyes, I see in hers too. Now your eyes are red from crying. Oh. Ma è caduta? Sì, vai. Quindi io avevo un minimo di timore a lavorare con lui, perché appunto lavoravo con un gigante, ma non ho mai avuto il minimo problema. Non solo, ma mi sono anche divertita moltissimo con lui. Questo sì, non era assolutamente cattivo, come si è detto e si dice, ma era sferzante e ironico e quindi ci si divertiva moltissimo, anche perché appunto avevo un approccio talmente concreto nei confronti del lavoro che qualunque fronzolo, qualunque piccola o goffa sbandata retorica gli ci faceva ridere, perché lui traduceva tutto in una ironia assolutamente intelligente. Devo dire che l'unica cosa di cui veramente voglio dire è che è stato un uomo, almeno per quanto mi riguarda, oltre che estremamente intelligente e simpatico, anche gentile, elegante e bello, perché Monicelli è stato anche un gran bell'uomo, oltre che un uomo di un'eleganza incredibile. Quando giravamo facevamo delle soste ai checkpoint lunghissime sotto un sole fortissimo nei pressi di Ramallah, eravamo tutti sfatti, sconvolti. Lui era il più anziano di tutti noi e lui era sempre assolutamente perfetto e quindi motivo per tutti noi di grandissima invidia. Ci mancherà moltissimo. Certo, senti, se hai un attimo di tempo ancora ti volevo chiedere un'altra cosa. Si è parlato molto in questi giorni, no? Il padre, il nonno, come ha detto lui in un'intervista che ho rivisto, della commedia all'italiana. Ma da un tu come regista, da un punto di vista proprio cinematografico, perché il cinema non è solo il soggetto, non è solo la sceneggiatura, è la regia, no? Io te lo dico da profana. Da questo punto di vista, secondo te, qual è la cosa più importante che ha lasciato col suo cinema? Guarda, io devo dire che addirittura lui una volta, in un momento di buon umore, mi ha lasciato addirittura un film in eredità, credo in modo simbolico ovviamente. Allora, per girare Domenica io conobbi un'attrice americana che si chiama Annabella Shore. Sì, certo. Questo succedeva nel 2000. Annabella Sciorra naturalmente è italo-americana e c'ha il mito di Anna Magnani. Parlando con lei a lungo di Anna Magnani, attrice che naturalmente lei amava e aveva mitizzato per tutta la vita da quando era bambina e che ahimè anch'io ho mitizzato e che conosco e conosco tutti i suoi film, io tirai fuori un film di Monicelli che secondo me, ma non sono sicura di questo, non ebbe neanche grandissima fortuna, che si chiama Risate di Gioia, sì, con bellissimo. Anna Magnani e Totò. E lei impazzì naturalmente a questo input, a questo stimolo, mi disse: ma io vorrei conoscere Monicelli, chiediamogli se ci dà i diritti per fare il remake. Naturalmente io ho pensato subito che non era una cosa possibile, anche perché due giganti così dove li trovi? Infatti. Però devo dire che facemmo una riunione in una osteria nel quartiere Monti, naturalmente, e lui mi disse: guarda Vilma, io mi piacerebbe moltissimo che tu lo facessi, quindi ricordatelo, questo diciamo è la mia, come dire, eredità a te. Perché mi voleva bene come io volevo bene a lui, e quindi io credo che Mario sia stato un regista immenso, e quindi non ho voglia di dire, come dire, cose specifiche, perché ho pudore. Mario è uno dei più grandi registi, è stato uno dei più grandi registi italiani, ci ha regalato film meravigliosi, e preferisco che siano i critici o gli storici del cinema a dire delle cose più tecniche. Io voglio dire soltanto che appunto anche semplicemente soltanto Risate di Gioia è un film assolutamente meraviglioso. Sì, è meraviglioso. Importantissimo, importantissimo. Sì, Vilma, allora io ti ringrazio, ti saluto proprio per l'affetto che tu stai... di cui ci stai parlando. Io capisco la difficoltà quando si vuole bene a una persona. Beh, in questo sì. Modo non è facile poi parlare. No. Ti voglio solo dire una cosa che ti farà piacere. Quando arrivò qui in tassì perché lui volle venire a fare l'intervista qui, noi demmo la disponibilità dovunque lui volesse, ma lui disse no, vengo alla radio. Arrivò in tassì, fece pochi metri, erano le 4 del pomeriggio, un ragazzo ci veniva incontro, si fermò, lo guardò e disse: sei un grande. E credo che sia la cosa migliore che si possa dire di lui. Era un grande. Sì, assolutamente. Va bene. Assolutamente. Grazie tantissime, Vilma, da parte di tutta la radio. Un bacione. Prego. Ciao, ciao. Un abbraccio. Grazie. Ciao. Allora, finisce qui questo ricordo di Mario Monicelli. Credo che le parole di Vilma Labbate siano state meravigliose, precise, giuste, non si può veramente aggiungere altro. era un grande affetto, lei l'ha conosciuto sicuramente meglio di noi, ma un uomo così credo che appartenga nel ricordo a tutti noi. E quindi concludiamo questa trasmissione, vi ricordiamo che fra qualche giorno, per chi non l'avesse presa dall'inizio, sarà poi disponibile come molte altre trasmissioni sul sito della radio, in ondarossa.info. Un abbraccio a tutti, soprattutto a quelli che hanno amato tanto questo regista e questo compagno.